Essere e benessere di Nicoletta Carbone. A parte che gli anni passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu, ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura. E voi? Vi è mai capitato di avere paura? Ma una paura violenta, improvvisa, una paura di morire. Il cuore è iniziato a battere forte, il fiato a mancare, le gambe a tremare. Avete avuto paura di impazzire? È successo? Ed è ricapitato? Conoscete qualcuno che vi ha raccontato il suo incontro con il panico? Restate, oggi ne parliamo, se ne deve parlare in modo naturale. Attacco, come dice il nome, perché è improvviso, intenso e di breve durata. Panico perché la paura è una paura grande, più grande della paura che ci sembra di conoscere. Qua in studio con me il professor Giampaolo Perna, psichiatra, direttore scientifico e primario della Casa di Cura San Benedetto Mennia dal Bese Concassano. Professore, buongiorno. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Attacco di panico, due parole che raccontano tanto. Ma raccontano tanto perché ci dicono intanto che è un attacco. L'attacco è un qualcosa di improvviso, potente, che ci coglie in qualche maniera impreparate. E il panico perché induce quella sensazione molto forte, quasi di perdere il controllo, per cui una persona in quell'istante pensa di non avere il controllo su se stessa. Invece sappiamo che il controllo viene sempre mantenuto. È importante ricordarci che è un fenomeno che colpisce tante persone. Potrebbe colpire chiunque, me stesso, io potrei essere colpito. Quindi parliamone serenamente, è qualcosa di naturale, di normale. Non di normale, però da cui non bisogna vergognarsi, non bisogna spaventarsi. Bisogna parlare, conoscerlo, e in linea con noi ha quasi, come dire, accettato l'invito fatto dal professor Perna, ed è l'invito di questa puntata. Parliamone, non nascondiamoci, non c'è niente da nascondere. Ha accettato il nostro invito una straordinaria attrice, Violante Placido, che è in linea con noi, anche cantante. Violante, ciao. Buongiorno. Buongiorno, scusate, apro una parentesi visto che ho appena preso questa notizia di Franca Rame. Volevo mandargli un saluto perché abbiamo perso una donna straordinaria, un artista incredibile, anche un pensiero a Dario Fo. Certo, a cui ci uniamo, grazie Violante. E, tornando a noi, sì, ma secondo me appunto quando poi i problemi vanno affrontati in generale, quindi non bisogna né nasconderli a se stessi e né avere, diciamo, paura o pudore di chiedere aiuto. Quindi anche io sono stata, diciamo, colta impreparata dal primo attacco, che risale comunque un po' di anni fa, un problema che ho risolto. Ero in un albergo e così il cuore mi ha iniziato a battere forte, però sono sempre stata una persona che, come dire, ha sempre pensato comunque di avere abbastanza il controllo della mia vita, anche di quello che mi accadeva intorno. E quindi lì per lì sono stata tranquilla, ho provato a trovare una soluzione, mi sono sdraiata, mi calmavo con la mente, ho alzato le gambe, respiravo lentamente, però diciamo che il cuore continuava a battere tanto più forte, quindi a quel punto mi sono proprio spaventata. E niente, ero in albergo, quindi ho chiamato giù il receptionist e gli ho detto: guarda, non mi sento bene, e questo qui mi fa: che facciamo, chiamiamo un'ambulanza? Appena detto ambulanza, ti sei ripigliata. Il cuore, cioè, mi sono calmata, mi ha talmente spaventato l'idea di andare poi in ambulanza da qualche parte, cioè, che la situazione in qualche modo si è calmata. A quel punto ho chiesto una camomilla, e forse in quel momento avevo solo bisogno di qualcuno che sapevo che non ero sola in quella condizione. Cioè, è arrivato il cameriere con una camomilla e io mi sono tranquillizzata. Quasi sentita a casa, Violante. Infatti, scusa? Quasi sentita a casa. Infatti, quello che tu sì. racconti è proprio raccontato anche dagli esperti, che dicono che l'attacco di panico è il più fisico dei disturbi psichici che investono la mente, che investono il cervello. Dopo, sì. dopo questo attacco di panico, tu come hai affrontato? Come hai avuto paura di avere di nuovo un attacco? Ti sei... Sì, no, ma la cosa poi è durata per un po', nel senso che... Ad esempio, cioè, sono cambiate un po' di cose, sono sempre stata una persona che comunque viaggiava anche con la macchina, per esempio facevo spesso spola Roma-Pescara, perché a Pescara facevo musica, ed è una strada diciamo abbastanza tranquilla, però piena di tunnel, e praticamente io non riuscivo più a guidare nelle autostrade, ad entrare in un tunnel, a non avere la possibilità di avere un'uscita d'emergenza, sia nel senso... reale del termine, ma anche proprio come, quasi come metafora, cioè trovarmi in situazioni dove non hai la possibilità di una via di fuga in qualche modo. Quindi alla fine insomma, sono andata a parlare con un medico che faceva diciamo un omeopata anche, che faceva analisi con meditazione guidata, quindi diciamo questi due elementi, sì. più la prescrizione di qualche goccina omeopatica, alla fine mi ha aiutato a risolvere il problema. Soprattutto si lavora sulla respirazione, perché poi negli attacchi di panico praticamente aumenta la respirazione e si produce più anidride carbonica, da lì la sensazione che ti manca l'aria, un senso di interruzione. Come stai per svenire anche quasi, no? Quindi ti spaventi. Cioè, anch'io sono andata una volta a fare alla fine l'elettrocardiogramma, perché poi ci passano tutti per queste cose, ti convinci che invece è un problema di cuore, che forse non ti capiscono quando dici che hai questo problema, no? Quindi vuoi verificare tutto. In realtà, appunto, poi ognuno tira le proprie somme, diciamo. Certo. Che, però questo è stato, potrebbe essere, lo chiedo a Violante, lo chiedo anche al professor Perna. L'attacco di panico, abbiamo detto, può capitare a chiunque, è un evento improvviso, di breve durata, ma molto violento, tanto che viene scambiato da molti come un attacco di cuore, ne parleremo, ci sono persone che vanno in ospedale, Violante di fronte, no, alla richiesta, all'offerta di un'ambulanza, ha detto no, mi calmo, prendo una camomilla, è stata bene, ma potrebbe essere anche un'occasione non per chiudersi, ma per cercare di fare qualcosa per sé, per conoscersi un po' meglio. Violante si è rivolta ad un medico, ha fatto meditazione, lavora sul respiro, è anche un'attrice, fa anche musica, quindi Violante tu lavori molto anche in questa dimensione, ma vorrei chiedere un contributo del professor Perna. Beh, sicuramente il panico è il più fisico dei disturbi mentali, proprio fisico perché colpisce il corpo, quindi il corpo tramite la respirazione, come giustamente osserva Violante, piuttosto che con il cuore, con la tachicardia, sono dei segnali molto importanti. È chiaro che come qualunque patologia che ci colpisca, questa poi ci porta a rivedere un attimino la nostra vita. Stiamo attenti a non confondere il fatto che non è la vita, le esperienze di vita che ci inducono il panico, ma il panico è un disturbo vero e proprio che scatta improvvisamente come fosse un allarme rotto. Da lì innesca, come ha ben descritto Violante, tutto il discorso delle fobie, delle paure e di quella limitazione di vita che poi non permette a ognuno di noi di realizzare noi stessi. Violante, io so che tu stai scappando, ci hai fatto questo grande regalo di intervenire in trasmissione a parlare di questo problema che va affrontato naturalmente. No, va affrontato, ecco. Poi brevemente insomma vi dico appunto, ognuno si ritrova magari di fronte a questo problema per una serie di cose, basta un po' indagare anche dentro quello che uno ha vissuto. Io per esempio, cioè senza entrare nei particolari, comunque poi mi sono resa conto che venivo da una serie di esperienze accumulate nell'arco di 2 anni abbastanza forti. Sì. E quindi in queste esperienze lì per lì sono stata molto forte, sono riuscita a tenere tutto sotto controllo, e forse poi dopo, invece, dopo questi 2 anni alla fine si è presentato un po' il conto, come dire, no? Di tutte quelle emozioni che si sono controllate di fronte insomma ad esperienze della vita che a volte insomma rappresentano degli certo. scossoni. Quindi insomma basta un po' non aver paura di andare un po' a fondo in se stessi e poi appunto la vita è un continuo, è una continua sfida e continuamente ci adattiamo sul come affrontarla. E poi niente, ecco, io comunque sono una persona emotiva, per dire, cioè appunto uno non deve confondere l'attacco di panico, cioè se per una volta ti viene un po' di tachicardia così, dici ah, oddio adesso, poi dopo ti viene la fissa che magari hai gli attacchi di panico. La paura di avere paura. Senti, esatto. Violante, quanto ti aiuta la musica? Io so che affianchi al tuo lavoro di attrice anche quello di cantante. È una terapia fantastica. Che consiglio a chiunque, infatti fa bene anche ai bambini molto piccoli, insomma è una bella terapia, qualcosa che ci fa compagnia, che ci rilassa, che ci aiuta a stare bene. Sì, Violante, vi do un appuntamento per chi può essere nei dintorni di Bologna. Il 1° giugno sono al Parco del Cavaticcio, al Biografi Film Festival, dove ci sarà l'anticipazione del mio album che esce a settembre. E poi tu verrai qua a settembre a Radio 24 e noi ci saremo 1° giugno a Bologna. Grazie a Violante Placido, un abbraccio. Ciao. Dicevamo, molte persone avvertono questi disturbi fisici, il cuore che batte all'impazzata, tanto che si va al pronto soccorso pensando di avere un infarto. In linea con noi il nostro dottor Massimo Gualerzi, cardiologo della Fondazione Dognocchi di Parma, all'Università di Parma, esperto di prevenzione e riabilitazione cardiometabolica, autore con Claudio Rinaldi di Super Salute. Buongiorno dottor Gualerzi, benvenuto. Buongiorno a tutti voi, grazie. Si pensa che sia un attacco di cuore, in realtà è panico. Sì, in realtà noi non siamo molto abituati a sentire il nostro cuore, quindi ogni sua comunicazione ci crea ansia. Sicuramente l'attacco di panico si caratterizza proprio per farci avvertire tutti quei sintomi che classicamente sono legati alle malattie cardiache. Il cuore va più veloce, abbiamo un senso di costrizione al petto, il respiro si fa sicuramente più veloce, superficiale, e questo spesso ci porta, appunto, come se diceva Violante prima, a recarsi al pronto soccorso. Sicuramente a priori non possiamo dire ok, non preoccupatevi, è un attacco di panico, a parte che l'attacco di panico ha appunto delle situazioni per le quali dobbiamo preoccuparci, però proprio perché esiste questa sovrapposizione clinica fra le due situazioni è logico che dobbiamo fare un distinguo, cioè è molto importante prima escludere un problema organico. Allora è logico che se questi sintomi li ha una persona in sovrappeso, con la pressione alta, magari diabetico e che ha già avuto dei precedenti cardiaci, non li sottovaluterei più di tanto dicendo che è un attacco di panico, prendo una camomilla e mi tranquillizzo. E quindi è importante andare a fare una valutazione in acuto per escludere questo problema. Ecco, nonostante poi si venga escluso, non dobbiamo neanche dire, come spesso fanno molti medici, ah, tanto è stato un attacco di panico, non è niente, cioè vai pure a casa tranquilla, perché come abbiamo appena sentito, quell'attacco di panico può ripetersi e può veramente in realtà condizionare la nostra vita quotidiana. Quindi, escluso che ci siano problemi, diciamo, di natura organica, non dico più gravi, ma di natura organica, dobbiamo sicuramente prenderci cura della nostra psiche, perché una volta, e come dicevi giustamente tu prima, può essere anche un ottimo modo per prendersi un pochino più cura di noi stessi, per diciamo curare il nostro aspetto psicologico e quindi per ripartire alla grande. Quindi l'attacco di panico spesso può essere un buon inizio. Bravo, è un'occasione. Risentiremo il dottor Gualerzi nella seconda parte della trasmissione per capire se c'è una dieta che può essere suggerita alle persone che hanno provato un attacco di panico, se insomma ci sono alcuni alimenti da preferire. Dottor Gualerzi, ci risentiamo tra poco, grazie per essere intervenuto. Grazie. Professor Perna, arrivano tanti messaggi. L'ho provato anch'io, mi scrive Massimo da San Gimignano. Per alcuni mesi l'importante è dire a se stessi sono vivo ed esserne convinti e respirare profondamente con la pancia. Se volete confrontarvi con noi, 800 24 0024, potete naturalmente seguirci su Facebook, su Twitter, naturalmente l'hashtag di oggi è panico, chiamateci, parliamone, ma se invece non riuscite a telefonarci potete mandarci un'email a esserebenessere@radio24.it, scriverci su Facebook, perché insieme al professor Perna, dopo la trasmissione, quindi inviate le vostre mail entro mezzogiorno, il professor Perna risponderà, faremo un piccolo video che metteremo sulla pagina di Facebook, ma intanto aspetto le vostre telefonate. 800 24 00 24. Il signor Soprano? Sì. Si accomodi. Secondo quanto mi ha riferito il dottor Cusamano, il suo medico di famiglia, lei giorni addietro ha avuto uno svenimento, probabilmente un attacco di panico. Aveva difficoltà a respirare? Che è stato un attacco di panico lo dicono loro. Certo, gli esami neurologici e del sangue sono tutti negativi. E mi hanno spedito qui. Adesso come si sente? Bene. Senta, io non ce la faccio a parlare con gli psicologi. Nessuna ipotesi sui motivi del suo blackout? Non lo so. Stress, probabilmente. Professor Perna, quando una persona si ammala di ansia, sviluppa vere e proprie fobie o ha degli attacchi di panico, io immagino che l'attacco di panico, abbiamo detto che è improvviso, quindi è come un fulmine a ciel sereno, ma immagino ci siano delle situazioni, delle condizioni, qualche indizio che possa far presagire che la situazione è a rischio o potenzialmente a rischio, insomma quello che mi chiedo. Ci possono essere dei segnali anticipatori, una fame d'aria ingiustificata potrebbe essere un segnale d'attacco di panico? Beh, sicuramente essendo il più fisico dei disturbi mentali, i primi segnali sono fisici. Possiamo avere delle extrasistole, possiamo avere delle difficoltà respiratorie, un senso di sbandamento e capogiro. Quindi sostanzialmente noi iniziamo a non sentirci in forma fisicamente. Quindi il corpo inizia a parlare un linguaggio che non ci è usuale e non è un segnale di benessere. Questo può essere un punto che spesso le persone col panico, per esempio, hanno tra un attacco e l'altro. Quindi tra un attacco e l'altro si sta molto meglio, ma non si sta sempre benissimo. È importante ricordare che se è vero, ne abbiamo parlato prima con Violento, con altre persone, che gli eventi di vita giocano un ruolo. Bisogna ricordarsi che esiste una predisposizione biologico-genetica a questo disturbo. Cioè se io non sono predisposto, posso affrontare gli stress della vita serenamente senza avere attacchi di panico. Se sono vulnerabile geneticamente, ecco che la vita può giocare una partita nel tirare fuori i problemi. È un disturbo vero e proprio, quindi parliamone serenamente, perché non è una cosa grave, non è una cosa di cui vergognarsi, non è una cosa che è legata a una debolezza personale. Però ricordiamoci che è un disturbo che va affrontato con serietà, perché ci blocca la vita. E si può curare. E si può curare. Questo è il messaggio che vogliamo dare oggi. L'attacco di panico va individuato. Ci si deve rivolgere a un esperto. Possiamo in prima battuta il medico di base, naturalmente, che deve essere sempre il nostro riferimento, e poi cercare di affrontare la situazione, perché come ci ha raccontato Violante, come mi stanno raccontando molti messaggi che stanno arrivando, dopo l'attacco di panico la vita cambia, perché iniziano a manifestarsi delle paure. Violante raccontava, ad esempio, non facevo più le gallerie, e quindi questo attacco di panico rosicchia, porta via la qualità della vita. Non dobbiamo lasciarglielo fare, assolutamente. Intanto chiamateci, parliamone. Può essere utile capire anche in quale luogo è capitato il primo attacco, che come si è manifestato, professor Perna. Allora, il luogo in cui è capitato ha in realtà un'importanza relativa, cioè può capitare ovunque, può capitare mentre siamo davanti alla televisione, quando siamo in cucina, anzi spesso nell'attività quotidiana ci prende di sorpresa. La cosa veramente importante è ricordarsi che questa è una condizione, come abbiamo detto, totalmente curabile. Vuol dire che non bisogna rimanere handicappati in parte, ma si può tornare a stare perfettamente bene. Il segreto è fare le cure in maniera corretta. Marco, dalla provincia di Lucca, prima dei mercati, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Volevo portare la mia testimonianza. Infatti, per quanto riguarda il primo attacco di panico, ne ho ancora molto bene chiara la situazione. L'ho avuto senza saperlo nemmeno che si trattava di attacchi di panico in missione quando ero militare. Però di lì poi, dopo anni e anni e anni dopo, mi si è ripresentato passando, diciamo, senza aver fatto alcuna cura. La cosa che ho riscontrato, che volevo portare alla vostra attenzione, è il fatto che la difficoltà, adesso praticamente non riscontro più niente senza aver fatto alcuna cura, ne sono uscito da solo, però la difficoltà che riscontriamo è il fatto che è come combattere contro se stessi, siccome il se stesso conosce molto bene i parametri di contromisure che prendiamo per riuscire ad uscirne, è molto difficile proprio ingannare se stessi e far sì che non ci sia la tachicardia, certo, che non ci sia la sudorazione, tutto qui, ecco. È vero Marco, è vero, perché Marco dice un po' come se il nostro corpo dicesse: ma a chi se la stai raccontando? Beh, è verissimo che è un combattimento con noi stessi, perché abbiamo una parte patologica, appunto, un allarme che non funziona bene, quindi ci lancia dei messaggi, una parte razionale nostra che ci dice perché deve avere paura, qual è il motivo. E quindi, se non è chiarito che è un problema patologico, uno rischia di pensare sto andando fuori di testa, piuttosto che ho un problema grave. Non è vero questo, ricordiamocelo. Essere e benessere. Perché non mi parla del suo amico? Questo amico è un tizio molto potente. Non aveva mai avuto problemi con niente e adesso all'improvviso casca a pezzi. Piange senza ragione, non può dormire, non può più stare con i suoi amici perché all'improvviso diventa nervoso davanti a loro. È come se volesse sfuggirli. Eppure si tratta di gente che conosce da una vita. E poi gli prendono delle specie di attacchi. Lui non riesce a respirare, si sente come svenire, dolori al petto. È come se si sentisse quasi morire. Attacchi di panico. Attacchi di panico. 800 24 0024, da Terapie Pallottole. Alcuni mi stanno chiedendo i riferimenti delle clip che mandiamo. Professor Perna. È un bel film, intanto mi sono divertito molto a vederlo. Bisogna stare molto attenti a prendere il messaggio corretto. Allora, il panico non è legato a problemi personali o disturbi infantili o altre cose. Nasce proprio da un malfunzionamento di alcuni allarmi nel nostro cervello. Questo è molto importante, perché poi la terapia implica una terapia integrata, che implica l'azione dello psichiatra tramite alcuni farmaci e l'azione dello psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, che riporta la persona a vivere con serenità. Stiamo attenti, perché riflettere sulle cause psicologiche del panico può essere un boomerang, perché ci fa perdere molto tempo e il tempo è vita. Monica dalla provincia di Vicenza e Alessandro sempre dalla provincia di Vicenza. Tra l'altro, Monica, intanto buongiorno. Buongiorno a voi. Professor Perna, dando la parola a Monica, abbiamo sentito Violante. È un disturbo, che uno scherzo del cervello, un allarme del cervello che sembra privilegiare i giovani, si manifesta intorno tra i 20 e i 40 anni. Vero. E ha un debole per noi donne. Monica, lei la parola. Allora, mia figlia, 11 anni, ha cominciato attacchi di panico con la scuola, il cambio dalle medie, dalle elementari alle medie. Mm-hmm. Il tutto si è manifestato molto violentemente, perché nell'attacco di panico lei diventava anche aggressiva, cioè sì, non riusciva più a controllare se stessa, non riusciva più né a dormire né a mangiare, il problema principale è la scuola, e siamo arrivati a un ricovero di ben mese a Treviso, in una clinica. Giulia sta frequentando un centro di comunità dove l'hanno portata, praticamente lei non prendeva più nemmeno il bus, non usciva di casa, proprio sì, il panico più totale. E adesso comincia a stare bene, adesso finalmente. Bene, Monica. Perché Bulls gestisce la cosa. Quello che mi preoccupa di più è che tante volte come madre tu lo vivi in una maniera allucinante. Lo credo, Monica. Perché tu ti fai mille domande, ti chiedi cosa hai sbagliato, anche perché io sono una donna abbastanza forte, indipendente, mi piace vivere, vi dicendo, e ritrovarti con una figlia che vivi che non riesce più nemmeno a mandare giù un boccone che ha davanti il piatto, perché proprio la sensazione di soffocamento è talmente tanto forte che non riesci nemmeno tu come mamma a gestire. Ti senti impotente e nello stesso tempo anche in qualche modo ti chiedi se puoi avere una colpa, una compartecipazione. Colpa. Monica, e io immagino, anch'io sono mamma, mi farei le stesse domande, ma chiediamo al professor Perna di darci una indicazione. Assolutamente colpe nessuna, quindi questo è molto importante. Il genitore non ha alcuna responsabilità della comparsa del panico, per cui vediamo di non creare ulteriori problemi su un problema importante. Allora, una specifica importante. Generalmente l'attacco di panico non si accompagna all'aggressività, questo è molto importante, quindi direi nella stragrande maggioranza dei casi. Certamente se è così devastante in termini di vissuto, in termini di effetti sulla vita, quello che fa è scatenare una risposta di difesa, che talvolta può essere anche quella di diventare più irritabili e aggressivi. Una cosa importante: perché i nostri bimbi possono avere la polmonite come noi adulti e invece non possono avere il panico? Questo lo dico perché anche i ragazzi, anche i bambini possono avere gli attacchi di panico, non bisogna partire dal presupposto che essendo piccoli non ce l'hanno. Quindi avere un po' di pazienza, se la vita è diversa da quella dei coetanei e se è limitata, senza paura andare a riferirsi a un neuropsichiatra infantile. Alessandro dalla provincia di Vicenza, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Alessandro, intanto che lei abbassa la radio perché sento già subito che c'è un eco, io voglio leggere un tweet. Nessuno ha ancora accennato il fatto che il disturbo di panico sia espressione di un conflitto inconscio. In realtà ne ha già parlato il professor Perna e dopo Alessandro della provincia di Vicenza rapidamente torneremo su questo aspetto che divide e fa discutere. Alessandro, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, al professor. Eccoci, vuole raccontare la sua esperienza o fare una domanda? Beh, la mia esperienza è che viene, diciamo, trascinato dal mondo del lavoro da qualche anno, ho avuto dei seri problemi anche familiari. Sì. E cercavo delle risposte magari da amici, un po' di conforto. Mm-hmm. E mi sono rivolto anche a enti istituzionali, però avendo, diciamo, un rovescio della medaglia sulle mie cose, e mi sono trovato più volte da solo ad affrontare le mie cose senza magari avere una direzione di come comportarmi. Quindi mi scusi Alessandro, lei mi sta dicendo che sta attraversato e sta attraversando un periodo particolarmente delicato della sua vita. Mm-hmm. E questo l'ha portato ad avere questa forte l'attacco di panico? Sì, e non ha trovato aiuto, oppure pensa che l'attacco di panico sia una conseguenza della mancata collaborazione, attenzione che gli altri hanno nei suoi confronti? Anche, diciamo che devo ringraziare, diciamo, persone che mi conoscono da sempre, che l'hanno sostenuta. Alessandro, ci racconta una cosa vera di cui si è letto anche tanto sui giornali: la crisi economica, il momento particolare che tutti noi stiamo vivendo slatentizza il problema. Direi che slatentizza più delle crisi di ansia e di paura, quindi non confondiamo l'attacco di panico con l'attacco di paura o la crisi d'ansia, perché la crisi d'ansia nasce per motivi ben precisi. A me capita qualcosa, sono in crisi lavorativa o altro, mi monta la paura e l'ansia, ogni tanto raggiunge i picchi elevati. Questo è qualcosa di differente. L'attacco di panico invece è un'esplosione del corpo che si manifesta in maniera abbastanza improvvisa, soprattutto nelle fasi iniziali. Quindi sono due cose diverse. Per quanto riguarda il tweet, okay. Allora, devo dire disturbi che, a livello inconscio. Allora, non esistono attualmente prove che legano problemi inconsci, conflitti inconsci con il panico. Attualmente esistono invece diverse prove che mostrano la natura biologica e genetica del disturbo e poi la parte comportamentale di tutte le fobie e le paure. Quindi c'è una componente psicologica, sì, non è una componente legata all'inconscio. È tornato a trovarci il dottor Massimo Gualerzi. Dottor Gualerzi, buongiorno, ribuongiorno. Vogliamo cercare di capire se esistono alimenti, vitamine, sali minerali, se in qualche modo la dieta può aiutarci ad affrontare meglio questa situazione, se ci sono degli alimenti da evitare. Insomma, il titolo di questa nostra piccolo focus potrebbe essere: attacchi di panico, mangia così? Beh, l'alimentazione la tireremo sempre in causa perché c'entra sempre. In realtà la prima cosa da dire è che, come al solito, no, una dieta povera di zuccheri semplici è da preferire, perché alimenti troppo ricchi di zuccheri andrebbero a sollecitare, come abbiamo sempre detto, il pancreas e quindi la stimolazione dell'insulina, creando degli sbilanciamenti dello zucchero nel sangue che possono essere anche questi alla base di quegli squilibri, appunto, che possono provocare crisi d'ansia o attacchi di panico. Quindi in realtà un'alimentazione più a basso indice glicemico, ottenuta con, diciamo, cibi integrali, pani integrali e comunque il più varia possibile con verdura e frutta, no, di stagione. Questo è il primo passo, dottor Gualerzi, ma c'è altro e c'è di più? Dopo le informazioni sul traffico, intanto già orientativamente possiamo capire che è una dieta povera di zuccheri semplici, preferire gli alimenti integrali, frutta e verdura. Vi rimando naturalmente alle ricette di Mangia con me, ma c'è di più. Essere e benessere. Dottor Gualerzi, siamo pronti? Sì. Eccoci. Vi do una ricetta molto semplice che potrebbe da usare per lenire un po' gli attacchi di panico. Sentite bene perché ve lo dice un cardiologo. 30 grammi di pane con un po' di burro e un filetto di alici potrebbe servire, diciamo, per riparare il burro. E ve lo dico da cardiologo, in realtà è il burro, sapete che è nemico del cuore, però preso in giusta parte in alcuni momenti può, come in questo caso, avere il suo perché. In realtà, essendo ricco di fosfolipidi, può andare, diciamo, a costituire un ottimo elemento di riparatore delle membrane cellulari, mentre il filetto di alice, essendo ricco di sali minerali e di omega 3, anche qui andiamo a ricostituire le perdite di sali che avvengono durante queste crisi d'ansia e di panico che ci portano a tensioni nervose. Quindi il ripristino degli elettroliti, degli omega 3 come antinfiammatori, vanno, diciamo, a lenire un pochino gli effetti e, diciamo, a prevenire ulteriori attacchi di panico. Quindi pane con burro e un filetto di alici. Altri alimenti, diciamo, che possono essere utili in questa stagione, diciamo, una bella caprese fatta con tofu, carote e semi di zucche. Perché questo? Perché il tofu sappiamo che è estrapolato dalle proteine della soia, e le proteine della soia, così come i semi di zucca, sono ricchi di triptofano. Il triptofano è un alimento precursore della serotonina, che è l'ormone del benessere, un riequilibratore neurologico, e quindi sostanzialmente mangiare una insalata fatta in questo modo può contribuire a ripristinare quei livelli di serotonina che molto spesso si abbassano quando siamo sotto stress e quando gli attacchi di panico ci attanagliano. Grazie, dottor Gualerzi. Quindi pane, burro e acciughe, tofu, carote e semi di zucca, questi sono due piatti molto semplici che possono essere indicati a tutti, ma che aiutano le persone che hanno un attacco di panico, perché vanno a riequilibrare proprio quello che l'attacco di panico ci fa perdere. Grazie, dottor Gualerzi. Grazie a tutti voi. Allora, Simona da Facebook ha scritto: abbandonarsi all'attacco è un ottimo modo per sconfiggerlo, provato personalmente. Espressione ha scritto: forse è il caso di menzionare, piuttosto che l'alimentazione e il peso, scientificamente provato, che l'uso continuativo di droghe, leggere non, ha nell'insorgere degli attacchi di panico. Un bacio a Espressione, perché di questo di cui volevamo parlare col professor Perna. Quindi mi ha dato proprio l'aggancio, ma voglio leggere anche Patrizia. Il professor Perna propone una sua lettura del panico, non è l'unica e non è necessariamente quella giusta. Credo sarebbe opportuno dirlo. Allora, da Facebook un confronto con il professor Perna. Professore, iniziamo da Simona. Abbandonarsi all'attacco è un ottimo modo per sconfiggerlo? Beh, sicuramente il panico non si può combattere con la volontà, quindi se noi continuiamo a sforzarci contro di lui, contro l'attacco, a quel punto lì ci troviamo ancora più ansiosi, con le armi spuntate. Quindi, ha senso? La risposta è sì, abbandonarsi può essere nel momento dell'attacco un modo per cercare di superarlo in quell'istante, poi bisogna curarlo. Un po' come quando, no? Arriva il dolore, uno si lascia, non, almeno le doglie, no? Ti lascia arrivare il dolore, espressione, il tema di cui volevamo parlare, sono droghe leggere non e anche alcune altre sostanze che possono scatenare l'attacco di panico. È molto vero, esistono dimostrazioni scientifiche molto chiare che le droghe, molte delle droghe in uso attualmente, scatenano attacchi di panico, no? Quindi sicuramente bisogna fare un'attenzione nel proprio vissuto quotidiano, soprattutto se io sono predisposto al panico, fatto di usare quelle sostanze. Come si fa a sapere se si è predisposti al panico? Se l'attacco di panico viene improvviso e violento? Questa è una domanda che arriverà tra poco al 349-238-6666, ma il professor Perna risponderà. Se in casa, se in famiglia avete delle persone che hanno sofferto o soffrono di attacchi di panico, probabilmente il panico potrebbe riguardare anche voi. Andiamo a Ivan dalla provincia di Torino e Ciro dalla provincia di Napoli. Buongiorno a tutte e due. Ivan è caduto. Ciro dalla provincia di Napoli, eccolo qua. Buongiorno. Buongiorno a lei, Ciro. Io chiamo per mia moglie, volevo sapere se l'attacco di panico può provocare una tachicardia. perché ho sì, l'abbiamo detto, Ciro, la invito a riascoltare la puntata, è stato proprio l'attacco della nostra trasmissione. Attenzione, è un disturbo, il disturbo più fisico dei disturbi psichici, forte tachicardia che naturalmente va indagata e interessa la moglie, e infatti l'attacco di panico riguarda in modo particolare le donne. C'è qualche cosa che si può fare anche rete. Abbiamo in linea con noi Anna Pappalardo, presidente di ALPA, che è l'associazione Liberi dal Panico e dall'Ansia, ha un sito www.infoalpa.it. Buongiorno dottoressa Pappalardo. Buongiorno. Voi fate rete, nel senso che i gruppi di autoaiuto possono essere un ottimo sostegno per uscire dal panico e soprattutto per evitare che altre fobie trainate dall'attacco di panico vengano nella nostra quotidianità limitandocela. Qual è la vostra esperienza, dottoressa Pappalardo? Sì, l'associazione nasce proprio per dare, diciamo, ascolto e sostegno a tutte le persone che soffrono del disagio d'attacchi di panico, ma soprattutto stimoli. La peculiarità dell'associazione sono proprio i gruppi alla pari e i gruppi condotti, e praticamente i gruppi hanno lo scopo di far uscire le persone proprio da quella fase dell'isolamento, che è la prima fase, la fase più brutta. E l'esperienza di scambio profondo e di fiducia reciproca può servire proprio a riscoprire quello che può essere la forza vitale della persona, divenendo all'interno del gruppo una risorsa non solo per se stessa ma per l'intero gruppo. La persona quando entra in un gruppo si sente una persona debole, bisognosa di aiuto, mentre all'interno del gruppo dà ascolto e si rende conto che può fornire aiuto e riceverlo. E quindi da una situazione da una situazione di solitudine a cui l'attacco di panico rischia di portarci, possiamo attraverso i gruppi di autoaiuto fare rete, come si dice, una mano lava l'altra. Grazie ad Anna Pappalardo. Prego. Presidente ALPA, Associazione Liberi dal Panico e dall'Ansia, c'è un sito che vi invito a visitare. Ivan, buongiorno, in chiusura dalla provincia di Torino, benvenuto. Allora, un saluto a tutti gli ascoltatori, mi chiamo Ivan e ho anche lo stesso cognome del vostro dottore. Veramente? Siete bene, allora Ivan, chiudiamo in bellezza, perna con perna. Vada rapido perché Carmelo Lauricella mi sfuma. Velocissimo, io ho avuto un excursus, diciamo, quasi ventennale per quanto riguarda gli attacchi di panico, e curiosamente facevo parte proprio di quel gruppo di persone che quando arrivava l'attacco di panico non sapeva neanche perché ce l'aveva. Tra l'altro mia madre soffriva anch'essa di attacchi di panico, e per assurdo fino a 2-3 anni fa lei pensava fossero problemi respiratori. Quindi col tempo bisogna diagnosticarli. Ivan, mi vuole mandare un messaggio in 30 secondi che mi chiudono? Ivan? Pronto? Sì, Ivan, mi saluti in 10 secondi con un messaggio per chi ci sta ascoltando. Certo. Allora, chiedete aiuto ovviamente al vostro dottore di base. Sì. Se c'è la possibilità di fare un percorso con un analista, fatelo, e non abbiate paura dei medicinali, perché a me quelli mi hanno salvato. Grazie a Ivan, grazie al professor Perna. Noi ci trasferiamo per le domande che saranno arrivate. Avete tempo fino a mezzogiorno. Essere benessere @radio24.it. Domani vi aspetto qui alle 11. Buona giornata. Essere e benessere.